con il regista Stefano Mencherini per parlare della campagna di crowdfunding per il suo documentario Colpo Grosso. Stefano, ben trovato. Bentrovati a voi, piacere di risentire a distanza di un po' di tempo, qualche anno mi Qualche pare. anno. Raccontaci un po' di questa nuova avventura. Beh, questa è una nuova scommessa, in tutti i sensi scommessa, adesso vi spiego perché. Perché Colpo Grosso, questo è il titolo del film inchiesta che stiamo cercando faticosamente di chiudere al montaggio. È un film sulle ludopatie, ma anche e soprattutto sui drammi che le ludopatie determinano nel nostro paese a livello individuale, a livello collettivo, sociale, eccetera, ma anche e soprattutto, dicevo, sulle collusioni che esistono nel nostro paese tra agenzie governative, parlo di monopoli e dogane, e le grandi multinazionali del gaming, del gioco d'azzardo che diventa di Stato, che sono le uniche veramente a guadagnarci sopra centinaia, migliaia di miliardi, come, faccio un nome, Lottomatica IGT, che è la più grande, la più ricca del mondo tra le multinazionali che appunto raccolgono concessioni governative da tutti i paesi, cioè sono decine e decine di nazioni nel mondo, in the world. Di questo racconta e denuncia, cioè racconta, insomma parla a voce alta, Colpo Grosso, e però attraversa qualche difficoltà, insomma, ecco. Com'era nato il progetto? Ma il progetto è nato perché? Perché tu hai sotto gli occhi un casinò generalizzato, hai tabaccherie che sono sale giochi, hai sale giochi in ogni dove, hai decine e decine e decine di tipologie di giochi d'azzardo di Stato diversi, differenti, un'infinità, un'infinità di opportunità, tra virgolette, di giocare a quello che ti pare, di scommettere su quello che vuoi, che la follia collettiva si alimenta nel disagio generale, nelle crisi economiche potenti come quella che stiamo attraversando, e quindi rovina decine, centinaia di migliaia, forse milioni di persone. Ecco, e su questo non è possibile tacere, di questo non è possibile non parlare. Soprattutto alla luce appunto delle collusioni, delle contraddizioni abnormi, delle assurdità che si incontrano soltanto cominciare a lavorare su un tema come questo in Italia, però nessuno lo fa seriamente, nessuno lo fa approfonditamente. Questo fa sì che al massimo in un servizietto del telegiornale, piuttosto che in un passaggino televisivo di qualche salottino, oppure piuttosto che in qualche magazine di cosiddetta informazione, anche delle reti ammiraglie, passino sì, ma dei messaggi flebili, quasi sottovoce, che giocare fa male, che esiste la ludopatia, che ci si può ammalare. È come sul gioco, è come sul gratta e vinci, che adesso mezzo biglietto c'è scritto il gioco nuoce, può nuocere alla salute. Ma quale ipocrisia peggiore esiste in uno Stato, all'interno di governi, e parlo di decine di governi che si sono alternati per decine d'anni alla guida del nostro paese, si incontrano appunto tali assurdità, abnormità, incredibili eccezioni, diciamo così, che vanno a favorire sempre soltanto uno, la multinazionale di turno, in questo caso l'italianissima Lottomatica IGT. Che tipo di ricerca hai fatto? Le ricerche le più varie, cioè oltre ai testimoni diretti, le gole profonde che sono all'interno di Lottomatica o di altre multinazionali o di altre, diciamo, anime nere del gioco d'azzardo legale, diciamo così. Poi le statistiche, incrociando i dati, e poi insomma quello che ogni giornalista che si possa minimamente fregiare di questo titolo deve fare per mettere insieme uno straccio di impiego. Come lo hai strutturato il lavoro? Il lavoro come è strutturato? Lo vedrete. Intanto bisogna finirlo il lavoro. Per questo abbiamo, per questo abbiamo lanciato un crowdfunding. Perché? Perché, come qualcuno saprà, Rai mi ha licenziato dopo 29 anni di onorato servizio, solo perché alzavamo un po' la voce con Rinascerà e un gruppo di dipendenti che è nato, che si è messo insieme a Napoli, nel centro di produzione di Napoli, nel dicembre scorso. Quindi mi hanno cacciato dopo un'infinità, dopo una via crucis che è durata mesi, di sospensione da servizio e cose varie. E allora già io prendevo 1.500 al mese prima ed ero, mi consideravo fortunato. Adesso senza quello, pieno di debiti, ovviamente anche per colpo grosso, che è totalmente autoprodotto, come ai tempi di Mare Nostrum, quasi 20 anni fa, non è cambiato niente in questo paese. Non esiste in questo paese uno straccio di produttore indipendente, veramente libero, che voglia occuparsi o che tenga a cuore un argomento, che lo porti fino in fondo e che tiri fuori qualcosa per scommettere su questo, su un lavoro. Non c'è. Ci sono miriade di film commission, ci sono fondi a pioggia o non a pioggia, c'è tutto quello che volete, ma non c'è uno straccio di produzione indipendente che stia colli almeno quello che una produzione seria, come dire, comporta, oneri e doveri. Non esiste, quindi il sottoscritto, come sempre, caccia di tasca sua. Il problema è che sono finiti, ma da un po'. E quindi il lavoro è bloccato, il montaggio è bloccato, siamo ai primi 40 minuti di 1 ora e 40 di film. Il gioco forza, vabbè, partita una sottoscrizione popolare firmata anche da Edoardo Winsper e da Giuliano Montaldo e da tanti altri contro il mio licenziamento, che chiede a Rai trasparenza e legalità, soprattutto rispetto della legalità, ma trasparenza innanzitutto. Al di là di questo, ora da un paio di giorni è partito un crowdfunding, è partito, l'ho fatto partire io, non è che qualcuno si è dato da fare per dire: oh, guarda quello stigato di Mencherini che fa sempre le battaglie con Tribunini a Vento, diamogli una mano, almeno aiutiamolo a lanciare un crowdfunding. Ma che, ha fatto tutti io. Senti, a questo proposito, come autodidatta anche in questo caso, perché è la prima volta che mi capita, insomma, ho sempre autoprodotto, ci sono sempre riuscito. Io non ce la faccio, grazie anche a Rai. A questo proposito, ci dai tutti gli estremi? www.stefanomencherini.org è il sito, c'è anche PayPal, e poi, se no, per gli amanti di Facebook c'è Stefano M, oppure Rinascerai tra i gruppi, eccetera. C'è anche un bis di Stefano M, perché solo il primo ha 5.000 cosiddetti amici, gli amici del Giaguaro, quelli di Zuckerberg di Facebook, e quindi non ne puoi prendere di più. Su www.stefanomencherini.org lì si può trovare la possibilità di donare direttamente 2 euro. Perché? Perché io ho fatto un conto: se 10.000 persone mettono 2 euro a testa, che sono un caffè un giorno e un altro il giorno dopo, 2 caffè sospesi come dicono a Napoli, arriviamo a 20.000 euro, che è la cifra che mi permetterebbe di chiudere il film e di iniziare a lanciarlo, cercando una produzione alla fine, insomma, comunque andando avanti come abbiamo sempre fatto. Non mi sembra un'impresa impossibile, anche se 20.000 euro sembrano un botto in tempi di crisi come questi, insomma, però 2 euro a testa, 10.000 persone, passaparola, adelante, dico io, cioè noi ci crediamo. E allora ricordiamo la campagna di crowdfunding per il documentario Colpo Grosso. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Mencherini. A questo punto ci diamo appuntamento per la pubblicazione di questo lavoro. Io adesso farò delle serate in giro per l'Italia di sostegno, di supporto al crowdfunding, quindi magari ve ne darò comunicazione, lo direte, ne faremo una o due anche a Roma. Bene. Presto, entro luglio e primi d'agosto. Però, se mi permetti, Federico, vorrei aggiungere un'ultima cosa. Sì. Riguarda sempre il mio tormentato rapporto con Rai, col servizio pubblico, nel quale ho cercato di militare per appunto quasi 29 anni, dal quale sono stato cacciato con un'ignominia per giusta causa, dicono loro. Sì, ho detto io, la giusta causa del partito deviato della Rai. Detto questo, Colpo Grosso porta un rammarico, ma anche in fondo, come dire, diventerà una medaglietta per questo nuovo film inchiesta. Il colpo grosso avrebbe potuto essere il primo documentario iscritto al Festival Internazionale del Cinema di Venezia quest'anno, e quindi uscire lì, essere proiettato lì e vedere come andava, con Rai Doc. Rai Doc è una nuova struttura che ha aperto Rai per volere in posizione, anzi, del nuovo contratto di servizio, per produrre internamente documentari. Ok, questa Rai Doc nasce, gioco forza, da una vecchia battaglia che anche il sottoscritto ha portato avanti per 6-7 anni, è tutto documentato nei siti, ma non solo, insieme a persone e professionisti come Ettore Scola, Ugo Gregoretti, che ci ha lasciato da poco, Sergio Zavoli, che ancora tiene duro, Giuliano Montaldo, che ancora c'è, meno male, e tanti altri cittadini, sindacalisti, pensionati, disoccupati, che stanno firmando una sottoscrizione sempre anche nel mio sito www.stefanomencherini.org. Ecco, ma non sarà così. Perché? Perché Rai Doc è nata, ma non vive, nel senso che è tenuta lì nel limbo, ancora senza una direzione autorevole, senza un'allocazione. Abbiamo chiesto che fosse, come rinascerai, abbiamo chiesto che fosse allocata a Napoli questa direzione permanente per supportare il rilancio del centro di produzione di Napoli, che sta morendo dopo 20 anni di dissennata direzione locale e nazionale del centro, che lo ha dismesso gradualmente. Da 900 dipendenti sono circa 400, e per 9 mesi all'anno, 8 mesi all'anno non lavorano, cioè non fanno niente, esclusa la TGR, che è un mondo a parte, sono una trentina, 30-40 fra giornalisti e tecnici. Ma nelle trasmissioni di rete, per le trasmissioni di rete, non si produce, se non appunto con l'elemosina che arriva da Roma di qualche programmino preconfezionato, tipo Made in Sud o roba del genere, pochi mesi all'anno. D'accordo? E poi si fa un posto al sole, che però è tutto appaltato all'esterno, è tutto di una multinazionale, anche lì, un'altra multinazionale, Fremantle, che da 23 anni gestisce i budget della Rai, insomma, mettiamola così. E quindi Rai Doc ancora non è nata realmente, non si capisce l'amministratore delegato Salini che cosa voglia farne. Aveva parlato, appena eletto amministratore delegato, quindi capo supremo della Rai, avevo letto in un'intervista al Corriere della Sera che aveva addirittura citato la produzione di documentari, eccetera, eccetera. Di fatto sono mesi e mesi e mesi che questa direzione, cioè, non è mai nata realmente. Chiaro, quindi l'unico rammarico è questo, però appunto che non possa essere a Venezia colpo grosso con Rai Doc, prodotto da Rai Cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Un abbraccio, Stefano. Un abbraccio.